Allora, il libro che Giuliano Amato, Pierluigi Ciocca e Paolo Pombeni discuteranno oggi pomeriggio, L'economia e la politica, saggi in onore di Michele Salvati, a cura di Giovanni Dosi e Maria Cristina Marcuzzo, edito dal Mulino, a me sembra un libro un po' particolare. Particolare nella sua genesi e particolare nei suoi risultati. Nella sua genesi perché, ma francamente io ho poca dimestichezza con l'Accademia facendo un lavoro come quello giornalistico che mi costringe a stare sul pezzo, come si dice in gergo, ma sulle cose effimere della quotidianità. Ho poca dimestichezza con l'Accademia, però francamente non ricordo moltissimi casi nei quali accademici sparsi un po' in giro per tutto il mondo abbiano dedicato tempo e riflessioni per direi un debito di amicizia, ma anche per riconoscimento di un'eccellenza intellettuale come quella di un personaggio di spicco come Michele Salvati. Ecco, non ricordo molti casi del genere, almeno in Italia. Mi dicono che sia una buona tradizione dei centri di ricerca e delle accademie internazionali, ma in Italia non credo che sia frequentissimo e devo dire che mi ha molto colpito un lavoro di questo L'Italia è genere. autarchica, la buon'anima aveva trovato una vena nazionale vera, l'Italia è autarchica, quindi raramente si concede il lusso di essere Certo, così. me ne ricordo pochi, insomma, e quindi devo dire che mi ha molto colpito la cosa. Però mi hanno colpito anche i risultati, cioè i contenuti, la qualità, lo spessore di questo volume che fa un po' da pandan all'approccio. Ecco un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha sempre colpito l'approccio interdisciplinare di un economista come Salvati, cioè gli economisti spesso cercano intrecci con altre forme di sapere, però un approccio così multidisciplinare come quello che si trova nei libri di Salvati tra l'economia e non solo la politica, ma anche la storia, la sociologia, le scienze sociali, devo dire che non è cosa che capiti ogni giorno, almeno per gente come me, che appunto non è cresciuta e non frequenta l'Accademia, non è cosa che capita frequentemente di trovare. E la raccolta di saggi è un po' un divertente gioco di specchi rispetto a tutta l'elaborazione e la riflessione di Salvati e appunto per chi fa mestieri diversi e è costretto a interessarsi quasi esclusivamente della quotidianità, come può essere chi lavora in un giornale. Devo dire che è una boccata d'ossigeno un libro del genere, nel senso che si può essere d'accordo o no con le tesi che vengono qua sostenute, ma insomma obbliga a riflettere su temi un po' più profondi di quelli che la quotidianità spesso ci offre. Il saggio quindi spazia un po' lungo tutti i sentieri della conoscenza e del sapere che lo stesso Salvati ha coltivato nel corso direi di una quarantina d'anni, e però, nonostante la varietà, io non voglio rubare qui il lavoro agli autorevoli di Scassant che poi parleranno di questo libro, a me pare di rintracciare alcuni fili conduttori. Uno mi sembra di metodo, cioè mi sembra, ho letto qualche giorno fa un bellissimo articolo di Alain Touraine su Repubblica, che diceva sotto i nostri occhi è passata una rivoluzione, non tutti e non sempre ce ne siamo accorti, ma quello che colpisce è che nessuno di noi ha ancora trovato un paradigma che ci aiuti a interpretare questa rivoluzione con schemi che durino un po' più di una stagione. Ecco, mi pare che anche questa raccolta di saggi si iscriva in questo filone di ricerca, no? C'è il desiderio di riuscire a trovare una chiave interpretativa di una realtà contemporanea che cambia forse più velocemente che in altri periodi e che non solo ha messo, ma mette continuamente in discussione certezze che sembravano acquisite. In Italia non si discute molto, i giornali preferiscono spesso occuparsi di gossip, non si discute molto della fase 2 della globalizzazione. Per trovare articoli senza scomodare libri su questi temi bisogna leggere i giornali internazionali. Ecco, però io credo che la necessità di trovare appunto un paradigma che ci aiuti a capire, a uscire dal grande spaesamento in cui siamo è una cosa molto avvertita e di cui appunto il libro è testimonianza. Il secondo filone conduttore che mi sembra fare un po' da filo rosso a questi saggi è che tutto sommato, al di là dei giudizi che sono anche molto diversi, che caratterizzano i saggi, c'è un po' una scommessa, non vorrei dire sul riformismo, ma sulla migliorabilità possibile della società italiana, che forse è anche un elemento caratteristico della riflessione di Salvati. Ecco, io non la voglio fare lunga, anche perché c'è gente molto più autorevole di me che può parlare con più competenza di questo libro. E, però, insomma, penso che la riflessione e la discussione di oggi possa ruotare soprattutto sugli aspetti non tanto metodologici ma di forte attualità che sono molto presenti nel libro. Per una volta vorrei evitare gli stucchevoli ordini alfabetici, quindi non cominceremo dal presidente Amato, proporrei dunque di cominciare dal professor Pombeni, poi il dottor Ciocca e quindi il presidente Amato. Ecco, al professor Pombeni vorrei chiedere che riflessioni suggerisce questa raccolta di saggi e anche che spunti unisce questo libro ai punti salienti di tutta l'elaborazione e l'attività di Michele Salvati, ma soprattutto vorrei chiedere di soffermarsi sul caso italiano. Ecco, in questi saggi lei trova dei percorsi, delle chiavi di lettura, delle speranze con cui superare quelle che hanno dato il titolo a un libro di successo dello stesso Salvati, no? Le occasioni mancate, ed è un tema che torna frequentemente in questi saggi. Ecco, questi saggi aprono delle chiavi, offrono delle chiavi interpretative, offrono anche dei motivi di speranze per evitare che la nostra storia sia sempre soltanto una storia di occasioni mancate. Prego. Io credo di sì, questo è un libro importante, già stato detto. Come del resto è importante la riflessione che Michele Salvati ci ha offerto lungo tutto questo arco di decenni. I due temi importanti che io ho recepito, insomma, io non sono un economista e quindi faccio quello che posso, sono il problema della cosiddetta classe dirigente adeguata rispetto alla trasformazione italiana, che è strettamente connesso con il problema delle occasioni perdute e delle occasioni da recuperare. Dietro a questa riflessione sta un contributo molto importante, a mio giudizio, di Salvati, molto importante al di là della sua disciplina, che il problema... Molto importante al di là della sua disciplina, notate il sano disprezzo per l'economista. No, per carità, no, parole dello storico. No, è, come dire, è un timore reverenziale, nel senso, io sono sempre molto rispettoso degli economisti, anche perché mi hanno cacciato una volta a Parigi in una commissione di concorso in cui uno di quelli da giudicare era un economista che era uno specialista di teoria dei giochi, e io ho dovuto confessare che non ho capito neanche una riga di quello che aveva scritto. Salvati, insomma, non capisco molto, ma poi cosa riesco ad afferrare, quindi sono già un pezzettino avanti. Lui, appunto, offre una cosa importante, che è questa idea di quella che si chiama la political economy, che è una cosa molto complicata, che ha spostato dal punto di vista della macro storia, come dice lui, che una cosa altrettanto interessante, qui non c'è il tempo, insomma, ovviamente mi piacerebbe divertirmi a fare come dire, il professore e entrare dentro questo concetto, ma comunque lo semplifico una cosa che ritengo importante, cioè la nozione di sistema. E qui questo è veramente un punto importante di unione fra le varie scienze sociali, che è una cosa che va al di là dei modelli, che va al di là dei rapporti storia-economia, eccetera, eccetera. E che in fondo spiega questo problema del mancato riformismo italiano, questo problema del perché non c'è stata una classe dirigente adeguata, perché abbiamo perduto certe occasioni. Non possiamo spiegarlo come possiamo dire, in termini, consentitemi, della vecchia storia etico-politica, che insomma qua e là fa un po' capolino nel saggio di Donolo, per esempio. Io ho questa idea della formula nittiana della leva pubblica, ci credo fino a un certo punto. Io credo che il problema che si deve affrontare è il fatto che il sistema Italia è un sistema di tipo tecnicamente medievale. L'Italia è ancora, era, una communitas communitatum, una comunità di comunità. L'integrazione risorgimentale non è mai funzionata, e non è funzionata per una ragione molto specifica, sulla quale secondo me Salvati ha dato delle intuizioni e insomma degli spunti che a me piace riprendere. Cioè l'idea che ci sia un giusto contro uno sbagliato, un progresso contro una arretratezza. E questa eredità ha ucciso il problema del liberalismo, che è fondato sul government by discussion. Come si può discutere nel momento in cui alcuni si ritengono portatori del giusto e ritengono gli altri sbagliati? Questo è un problema drammatico, ma è un problema che corre lungo tutta la nostra storia e che è quello che, secondo me, ha fondato la mancata concorrenzialità delle élite. In questo paese non si compete in famiglia, ma si compete fra famiglie, sia pure fra famiglie politiche. E quando si è raggiunta la feudalizzazione fra le famiglie, anche quel po' di competizione interna che esisteva è finita. Per questo, nella prima fase della storia repubblicana, per non andare troppo in là, noi abbiamo avuto un po' di competizione perché ciascuna famiglia doveva dimostrare rispetto alle altre famiglie di avere degli uomini di valore. Poi hanno scoperto che ciascuno aveva il suo feudo, a questo punto questo problema è finito. Ed è finito col fallimento del centro-sinistra. Il centro-sinistra è stato il momento, cioè laddove è venuto meno alla ricerca della classe dirigente adeguata, è stato, a mio modesto giudizio, quel momento che dipende da un fattore che mi piacerebbe molto discutere con Salvati, cioè dal fatto che il centro-sinistra arriva dopo che tutti quelli che hanno lottato per raggiungere questo risultato sono stati sfiancati, gli è stato tolto tutto il fiato. Noi abbiamo dei tempi di realizzazione delle imprese eccessive. In questo caso ci sono due grandi responsabili: uno è la Chiesa Cattolica, che ha ucciso la Democrazia Cristiana, l'altro è il PC, che ha distrutto il Partito Socialista. La Chiesa ha costretto la DC a passare la sua vita a chiedere atti di anticomunismo ai socialisti, il PC ha distrutto i socialisti chiedendogli costantemente la prova provata che non erano una forza al servizio del capitalismo. Ecco. Io credo che questo pericolo resista anche oggi. Cioè, che è il pericolo poi di ridurre tutto a degli auto da fe. Ma il riformismo con gli auto da fe non si può fare. Il riformismo non è un importare ricette adeguate agli slogan ideologici che circolano, che è un po' l'eterno provincialismo italiano. Dobbiamo sempre vedere se c'è un altro paese in cui hanno realizzato una cosa e chiederci perché noi non abbiamo realizzato quello che si realizza negli altri paesi. Io non sono un grande personaggio internazionale, ma per quel po' che ho girato ho visto dalle altre parti che questo problema non esiste. Nessuno si pone il problema del perché non abbiamo copiato qualcun altro. E il problema qui, appunto, è fondato su quello che dice Salvati. Non si può importare perché siamo un sistema. Importare ha un significato se si importa all'interno di un sistema. La vecchia barzelletta che non si possono vendere frigoriferi agli eschimesi dice una terribile verità, cioè il frigorifero sta dentro un sistema, se in quel sistema il frigorifero non è utile, il frigorifero non lo prende nessuno. Allora, noi siamo un paese in cui l'invenzione è considerata eversiva, la soluzione del problema è considerata eversiva, perché noi non ci poniamo mai il problema da risolvere, noi ci poniamo sempre il problema dell'ortodossia rispetto a quello che va risolto. Per farla breve, potrei citare tranquillamente l'esempio dell'università. Io la settimana prossima sono a Parigi nella commissione di concorso dell'Institut Universitaire de France, che è una bellissima invenzione, che si potrebbe fare tranquillamente anche in Italia, costa poco, eccetera, eccetera, che è fatta sul presupposto di che cosa? Noi dobbiamo far funzionare tutte le università. Allora, lì come funziona? Sono una serie di posizioni che vengono date a professori che rigorosamente restano nell'università dove sono, in qualsiasi parte della Francia, vengono pagati dal governo esattamente lo stesso salario che ricevono, così si evita il problema di quelli che vogliono correre, in più gli vengono dati dei mezzi per fare ricerca e per guidare i kit di ricerca. Sono nomine temporanee, 5 anni per i più giovani, 10 anni per i più anziani. È quello che è arrivato dopo l'altra grande invenzione, post-68, l'università non funziona, fabbrichiamo le grandi scuole, i centri di eccellenza. Questa è una classe dirigente adeguata, cioè non facciamo queste cose, tutti sono uguali, dobbiamo essere uguali, non possiamo, dobbiamo andare un pezzo a Caio, un pezzo a Tizio, un pezzo a Sempronio. No? Noi non abbiamo una classe dirigente che si misura con questi problemi. Perché? Allora, io qui mi permetto di elencare 3 punti. Primo, perché non c'è nessuno sforzo per crearla. Noi abbiamo l'illusione che la classe dirigente nasca da sola come i funghi dopo una notte di pioggia. Non è un caso che abbiamo questa idea, perché naturalmente la formazione delle classi dirigenti era un fenomeno riservato alla Chiesa Cattolica e ai partiti, e quindi questi non volevano che ci fosse concorrenza su chi formava la classe dirigente. Nel momento in cui, per varie ragioni, questo modo di produrre la classe dirigente è entrato in crisi, noi ci siamo trovati in una situazione in cui la produzione della classe dirigente non ha più canali, è un problema che non esiste. Noi diciamo la classe dirigente non c'è, ma nessuno fa niente per farla esistere. Secondo punto, perché non c'è una cultura di sistema? Una classe dirigente non può nascere come una classe dirigente interna ai gruppi, perché è un obiettivo troppo piccolo. Una classe dirigente vera è una classe dirigente che si misura con il sistema, ma deve essere riconosciuta dal sistema, cioè ci deve essere qualcuno che riconosce il sistema. In un paese in cui, permettetemi di dirlo, a cominciare dai mass media, tutto è organizzato in forma di tribù, è molto difficile che noi possiamo avere un meccanismo che incita la classe dirigente. Terzo punto, perché non ci sono spazi di sperimentazione? Non esiste possibilità di creazione di classe dirigente se non si dà modo alle persone di sperimentarsi come classe dirigente. Del resto, le poche o tante cose, o le alcune cose che sono nate in Italia, sono nate laddove, per le ragioni più varie, si sono aperti spazi di sperimentazione. Secondo me il caso tanto aberrato delle TV private è un esempio splendido. Lì si è, nel bene, nel male, discutibile, non discutibile, moralmente avanzata, moralmente arretrata, tutto quello che volete voi, però si è formata un'alternativa a un sistema che pareva inattaccabile, e questa alternativa alla fine è diventata un'alternativa vincente. Ma perché, per una serie di ragioni molto complicate, è arrivato uno spazio in cui era possibile sperimentare. Allora io dico, all'interno di tutto questo dobbiamo raccogliere la sfida che ci lancia Salvati nelle sue opere, e che coloro che le hanno così brillantemente commentate in questo libro le hanno riassunte. Se ci sono occasioni perdute, ci sono occasioni da recuperare. E queste occasioni da recuperare non possono nascere se non da uno sforzo comune di riappropriazione culturale di quello che è il sistema. Il sistema che è fatto di storia, che è fatto di economia, che è fatto di relazioni sociali, che è fatto anche di modelli, che è fatto di tante cose, ma che comunque deve essere un sistema che in qualche misura coinvolge tutti e che in quanto tale va costruito. Allora, io rendo il dovuto onore a Michele Salvati, che ha speso una grande parte della sua vita nella costruzione di questa nozione di sistema, nel invitare le persone a riflettere sulla necessità di costruire questa classe dirigente adeguata, e naturalmente adeguata a cosa? Adeguata a questo sistema, adeguata alle sfide che ci troviamo di fronte. Però devo anche dire che se questa cosa rimane, diciamo, l'eterno discorso degli intellettuali che vorrebbero che questa cosa ci fosse, ma poi nessuno raccoglie la sfida, e non andiamo molto in là. Io mi illudo che, come dire, la crisi attuale che stiamo vivendo sta raggiungendo dei livelli tali, sta ponendo degli interrogativi così drammatici che ormai le parti migliori della società si rendono conto che non si può andare avanti come prima, e le altre saranno costrette a fare come l'intendenza, cioè a seguire. Grazie. Grazie. Beh, come era facile immaginare, il tema delle occasioni mancate è un tema che tornerà, credo, nella discussione, così come ha caratterizzato larga parte della riflessione di Salvati e così come è ampiamente presente nella raccolta di saggi raccolti nel libro appunto che stiamo discutendo. Al dottor Ciocca vorrei porre. Professore, un'offesa. Allora, temendo gaffe, io mi sono documentato prima della. Lui è dottore. Però insegna, se uno chiama professore Derita, Derita si arrabbia immediatamente, e per lui di no. Allora, io mi sono documentato prima della presentazione, mi sono documentato dal diretto interessato che mi ha detto: mi chiami dottore, perché dottore rimanda anche a una stagione gloriosa, no, del suo percorso professionale. Quindi dottore. E il dottor Ciocca ha appena scritto un libro di grande interesse, o quantomeno il libro Ricchi per sempre promette pagine interessanti. Nella prefazione di questo libro si dice che la società italiana è sospesa perché da troppo tempo vive una crisi profonda di orientamenti, di identità, e di identità, è una crisi profonda appunto, che prima ancora di essere economica è una crisi di identità, di orientamenti, di schemi di interpretazione della realtà. Ecco, a me pare che questo sia un punto interessante, perché non voglio ridurre ad uno pensieri e approcci molto diversi, però pur nella diversità dei percorsi, a me sembra di capire, e appunto volevo chiedere a lei se è una sensazione, un'interpretazione corretta o meno, mi sembra di capire che nelle terre di nessuno e nelle terre di confine su cui si muove il pensiero di Salvati, e su cui si muove anche questa raccolta di saggi, e su cui si muove lei con i suoi libri, adesso io ho ricordato l'ultimo, ma anche i precedenti mi pare che ponessero dei problemi abbastanza analoghi. Mi pare che ci siano delle affinità e dei concetti comuni pur in mezzo a infinite differenze, soprattutto su un punto, cioè mi pare che lei vada sostenendo che non si capisce realmente l'economia se prima o insieme non si capisce anche la politica. Io naturalmente schematizzo, però mi sembra che questo è un punto della riflessione non secondaria a cui volevo chiederle di parlarne. Sì, grazie. Sì, questo è il punto, questa è la ragione, oltre all'amicizia e alla stima antica per Michele, per la quale io sono qui con molto piacere, a salutare anch'io questo bel volume curato da Marcuzzo e Dosi, fatto di saggi mi pare tutti interessanti, per festeggiare un cultore di scienza sociale fra i più distinti, La riflessione di Michele ha concorso, voglio dirlo con piena convinzione, ha concorso non poco a dare alla scienza economica italiana d'oggi la sua, quella che sembra a me, la sua caratteristica più apprezzabile, comunque precipua, che io ravviso, Michele, nella ricchezza critica dei punti di vista. Questa, una varietà preziosa in un mondo in cui la disciplina dell'economia, la professione degli economisti, ce ne lamentiamo tanto spesso, si omologa, rischia di appiattirsi su questo troppe volte evocato, forse, pensiero unico. Il titolo stesso, come lei diceva, del volume qualifica Michele come cultore di economia e di politica. Prima che la nostra conversazione iniziasse già litigavamo su questo titolo con qualcuno. Io difendo il titolo, apprezzo il titolo, qualcosa di più pare a me, comunque di un po' diverso dalla stessa economia politica di classica memoria, molto di più e di profondamente diverso dalla cosiddetta economica oggi prevalente. Ecco, specialmente intrigante, come lei accennava, pare a me il nesso che va nella direzione dalla polis alla performance, alla struttura dell'economia di mercato e capitalistica. Per polis intendo istituzioni, intendo politica politicante, insomma, la politica stricto senso. Intendo cultura e quindi, come forse il professor Pombeni prima accennava, intendo storia. Insomma, come il volume conferma, in questo aspetto almeno della riflessione di Salvati, studioso, la diade di economia e politica punta a un preciso metodo di analisi della società, volto a una finalità conoscitiva che personalmente trovo intrigante e stimolante, detta proprio papale, la influenza della politica, nell'accezione a cui prima mi sono riferito, sull'economia italiana, ma non soltanto. Ecco, io non ho difficoltà, anzi forse devo farlo, per scoprire le carte, insomma, confessare anche di fronte a voi la mia crescente insoddisfazione di fronte a schemi tanto insistiti in cui variabili economiche sono ricondotte a determinanti tutte e solo d'ordine economico. Credo che comincino a non poterne più gli stessi economisti ortodossi, formalisti, qualcuno oggi dice mercatisti, insomma neoclassici, una volta si diceva economisti puri. Leggevo per esempio qualche giorno fa una interessante intervista, l'ho trovata interessantissima, a Soros sulla New York Review of Books, che credo preluda all'uscita di un suo libro. Certo Soros non è né Keynes né tantomeno un professore. Ha fatto molti più soldi. Ha speso bene. Sì, l'ha fatti con noi poi, insomma, notevole missione. Sì, l'ha fatti con voi, altri Vabbè, poi ne parleremo. Poi ne parleremo, se vorrete, del secondo però gli giro. Gli inglesi hanno pagato di più. Gli inglesi hanno pagato ben consigliere. Dunque, dicevo, Soros, in questa intervista, io leggerò il suo libro, non so se sarà un libro, insomma, da finanziere appunto, invita a collegare economia e politica ai fini del superamento della crisi finanziaria internazionale in corso, di cui avrete letto, siamo stati martellati dai media su questa crisi, la crisi dei subprime, vista da lui come crisi, in primo luogo, non so, certamente soprattutto, sociale e politica, o comunque con implicazioni potenziali sociali e politiche di grandissimo momento, che vanno ben oltre questioni di come i mercati funzionino, di fair value, di come si contano i valori, i cespiti nei bilanci degli operatori finanziari. Ecco, l'istanza invece contraria, quella per la quale io sono simpatetico e credo che anche Michele non sia avverso di fronte ad essa, è semplicemente quella di spiegare le stesse variabili economiche considerate più esogene nell'analisi economica in senso stretto, che sono a propria volta queste variabili determinanti prossime di fenomeni economici rilevanti, con forze, diciamo, meta-economiche. Ecco, questa istanza, mi pare di cogliere, insomma, è avvertita, comincia ad essere avvertita un po' più at large, è avvertita financo nei manuali di economia un tempo più aggiornati e però tradizionali. E questo è nuovo. Faccio un esempio, lo voglio fare prendendo il toro per le corna. Il toro naturalmente è la questione con la Q maiuscola, quella della ricchezza delle nazioni, insomma la questione della crescita. Ora il nostro Solow, aggiornato e quantificato, resta la base della stessa manualistica, talvolta con esecrabile dimenticanza di precedenti irrinunciabili, da Riccardo a Schumpeter fino a Serroy Harrod. Però non di rado nei manualetti di crescita, per esempio ne cito uno che ho letto in questi giorni, questo Economic Growth di un certo David Weil, che è stato tradotto in italiano da qualche tempo, ci si interroga sul perché dei perché. Perché sì, le variabili esplicative di Solow, questa trimurti di Solow, insomma, accumulazione, efficienza, progresso tecnico, riducendo ad uno scheletro un discorso molto complesso, perché queste variabili esplicative di Solow variano? Perché le variabili variano? E in quale direzione? Perché variano nell'una direzione piuttosto che in un'altra? O perché non variano, insomma? La storia economica, oppure forse perché no, anche la storia senza aggettivi, sembra fornire un aiuto, una specie di Florence Nightingale, insomma, questi economisti puri della crescita, forse aspettano, professor Pombelli, più di quanto. Insomma, un entusiasmo da neofiti, forse, un entusiasmo da neofiti. Ora, Michele Salvati pratica questo metodo da sempre, e l'ho fatto, voglio dire, con risultati apprezzabili, credo non caduchi. Posso fare un esempio, uno solo, però importante, ed è quello della stagflazione italiana. Della stagflazione italiana degli anni 70, ahimè poi proseguita negli anni 80, terribile congiunzione di brutte cose. Michele l'ha approfondita, come sapete, in più scritti, fra l'altro compendiati nei suoi due libri per il mulino del 75 dell'80 in italiano. Ecco, al di là degli shocks, ambiguo termine, fragile concetto, da petrolio e da finanza pubblica, i quali comunque pure postulano cause di essi, di fondo, di natura squisitamente politica, politica estera, petrolio, politica interna, la pubblica finanza, beh, insomma, allora saltarono le curve di Phillips. Questa relazione fra disoccupazione e dinamica salariale, con disoccupazione crescente, sono andato a riguardare i dati, Michele, dal 5% del 70 all'8% nell'80 e poi ancora oltre, con disoccupazione crescente i salari nominali nel nostro paese accelerarono drammaticamente, salendo a un tasso medio del 18% l'anno, che è un numero, questo problema, spaventoso, in particolare vis-à-vis una dinamica della produttività che oggi compreremo a scatola chiusa, della quale tanto ci lamentavamo, una dinamica della produttività dell'ordine del 4-5%, insomma, nella retrospettiva molto sostenuta, ma comunque assolutamente impari di fronte a quelle bordate salariali. Ecco, questa follia tutta italiana del salario variabile indipendente, non in termini analitici, non è questo il punto, insomma, ma in termini fattuali, salario ignaro di ogni compatibilità davvero, è ben spiegata da Michele, appunto andando oltre l'economico. Non riassumo, insomma, naturalmente, però ricito due righe, che ho, due righe del professor Salvati che ho citato e quindi mi viene facile in questo mio libretto che è stato prima evocato. Cito, libretto sì, librone, insomma la citazione è questa: è evidente come le condizioni non fossero ancora mature per un mero rapporto di scambio, in cui reali o presunti vantaggi economici, politici, istituzionali per il movimento operaio vengono scambiati contro moderazione salariale. Michele Salvati è uno dei pochi che ha altresì capito, questo devo dirlo perché insomma questo istinto di difendere Via Nazionale 91 l'ho ancora perso. Non l'hai ancora perso. Nel bene e nel male, Presidente Amato. Michele è uno dei pochi che ha altresì capito che Banca d'Italia non poteva stroncare, non poteva stroncare quella inflazione di quella natura. E gli chiarisce bene, ed è uno dei pochissimi ad aver capito questo. Siamo pochi, forse sbagliamo, però. Che solo in sede politica si sarebbe potuto decidere una strategia monetaria di deflattiva d'oltranza contro quella inflazione, cosa che per ragioni politiche non avvenne, insomma. Cosicché tanto Carli nel 74 quanto Baffi nel 76 dovettero, con le brigate rosse a passeggio per il nostro paese, desistere dall'azione restrittiva che avevano avviato. Concludo rapidissimamente con un accenno al problema che viviamo da un quindicennio, da quell'anno, come si dice, orribile, terribile, economico, politico e morale, che fu il 92. L'anno che forse nessuno, almeno la seconda metà di quell'anno, ha patito sulla propria pelle più del presidente Amato. Ho definito da tempo il problema economico italiano da diversi anni come un problema di crescita. Abbiamo discusso in varie sedi, come un peloso problema di crescita. Tale è rimasto, nonostante questa bava di espansione ciclica a cui abbiamo assistito nel 2006-2007 e che si è già spenta, e fa temere che quest'anno, come si chiama, il PIL, lui resterà molto probabilmente piatto. Ecco, la prospettiva è davvero preoccupante, insomma. Io il termine declino non lo uso, ma insomma, desolante. Ora, Solov s'applica prima facce al caso italiano degli ultimi 15 anni. Il ristagno è in prima approssimazione, insomma, in termini di contabilità ex post, riconducibile alla Trimurti. Un'accumulazione appannata del capitale e di altre risorse, un'efficienza diminuita e un progresso tecnico che sembra davvero andato via. Ne parlavamo prima con Dosi. Io non credo nella produttività totale, sono stato educato a non crederci a quella cosa là. Però non ci credo, Michele, soprattutto quando cresce la produttività totale dei fattori. Quando essa diminuisce, Presidente Mario, in valore assoluto, cioè quando diventa più piccola di ieri, cioè quando lo stesso contadino, con la stessa zappa, lo stesso campicello, lo stesso tempo atmosferico, lo stesso tutto, produce meno patate di ieri, come è accaduto in Italia, almeno secondo le statistiche migliori di cui possiamo disporre, in particolare nel 2001-2005, sono sfortunato per questo scopo. Ha beccato il quinquennio del TTF no, in calo, insomma un po' ci credo. Comunque il dato è tremendo. E qui, appunto, benissimo, la Trimurti forse spiega. Ma perché? Perché questo è avvenuto? Perché la Trimurti è andata così? Bisogna chiederselo, cioè accumulazione, efficienza e produttività totale. Io passo, il mio schemento è una quadrimurti, l'ho detto adesso veramente a noi, alcuni amici che me l'hanno sentito dire già troppe volte, concorrenza scemata, bassa dinamica di imprese, queste piccole donne che non crescono, queste imprese non si sono dimostrate, le imprese italiane degli ultimi anni, finanza pubblica ancora da riequilibrare, e infine le infrastrutture materiali, ma anche di diritto dell'economia inadeguate. Ora, econometricamente, queste quattro variabili, in senso statistico, spiegano, attraverso la Trimurti, ciò che osserviamo, questo ristagno, insomma, dell'economia italiana, in particolare della sua produttività. Ma di nuovo, perché la concorrenza scema? Nonostante l'antitrust, Presidente, se posso permettere, perché le imprese restano piccole donne che non crescono? Perché straordinari ministri del Tesoro, di altissimo livello, quali quelli che abbiamo avuto in Italia in questi ultimi lustri, non sono riusciti a intaccare la spesa primaria corrente meno produttiva ai fini generali dell'economia, costringendo nel 97, di nuovo l'anno scorso, il mio amico Visco a passare la tassa per l'Europa, questa volta tassato la mia banda. Sì. Perché non si riesce ad asfaltare? Io non avevo mai percorso la Salerno-Reggio Calabria, mi è capitato qualche settimana fa, perché non si riesce ad asfaltare quella, così dice, quella via, quella cammelliera, insomma, e nemmeno a dotare l'economia italiana di una cornice giuridica di diritto dell'economia, mi riferisco proprio ai capisaldi, insomma, diritto societario, diritto processuale civile, diritto delle liti, diritto delle procedure concorsuali, insomma, a concio. Ecco, queste, insomma, penso, temo che dietro le mie quattro variabiline economiche, no, ci sia ovviamente dell'altro, questo è il senso del mio intervento, che concludo nel seguente modo: questi perché dei perché possono essere penetrati, io credo, solo collegando. Insomma, tutto qua, economia e polis. Michele ha spinto questo suo impegno, no, in questo senso, addirittura sino all'azione diretta in politica. Insomma, credo che di più non si possa chiedere a un intellettuale. Quindi ha dato e darà apporti importanti affinché, Michele, come si deve dire, Stato e mercato insieme, no? Stato e mercato insieme, perché nell'uno da solo, nell'altro da solo, nel caso italiano io ne sono convinto, insomma, ce la possono fare. La signora Marcegaglia oggi ha fatto un bellissimo discorso, ma di nuovo riferendosi ad una delle due, a uno dei due elementi della diade, allo Stato. Ma la produttività, che è diversa dal costo medio, anche, nasce nelle imprese. Poi questo Stato inefficiente graverà di costi. Ma qua parliamo di produttività, quindi insomma occorre un concorso, io sogno una svolta giolittiana, essendo un giolittiano da prima ora, spero che questa avvenga, grazie. Di solito i giornalisti hanno il terribile vizio di semplificare, spesso snaturando i problemi che devono trattare, però mi pare di capire che insomma un po' meno di attenzione ai modellini teorici, un po' più di attenzione alla complessità del rapporto tra economia e politica forse ci aiuterebbe a capire qualcosa di più della realtà contemporanea. Però le osservazioni di Ciocca mi suggeriscono una domanda da porre al Presidente Amato. Ecco, pensavo al 92, pensavo anche alle vicende dell'euro. Cioè sembra quasi una maledizione che pende su questo paese. Cioè non è vero che in fondo l'Italia negli ultimi 20-30 anni non ha preso talvolta anche delle decisioni coraggiose. Penso appunto alla memorabile manovra di bilancio che si trovò a fare il presidente Amato nel suo primo governo, o penso all'ingresso nell'euro, non era affatto scontato, no? Però mi sembra di poter dire che questo paese decide sempre e soltanto o se c'è un vincolo esterno o se siamo sull'orlo del baratro. Oggi è difficile dire, però siccome il tema delle occasioni mancate incuriosisce, io proprio ieri, pensando alla discussione di oggi, mi sono andato a rivedere un pochino il libro che Salvati aveva scritto 8 anni fa, Occasioni mancate, no? E ho trovato un passaggio nella sua introduzione che mi ha molto colpito, che vorrei leggere. Dice: la tesi forte di questo saggio è che la frattura politica che ha lacerato il nostro paese sino ad anni recentissimi abbia avuto sullo sviluppo effetti negativi considerevoli, quindi la frattura politica, e che quel poco di speranza circa il futuro che è possibile nutrire in tempi confusi come questi discenda proprio dalla definitiva scomparsa di un conflitto radicale, di uno scontro di mentalità e lealtà politiche che ha diviso il paese per tutto il dopoguerra. Io non so se Salvati sia stato profetico, però mi sembra di trovare qualche consonanza con la situazione attuale, no? Io non lo so, appunto, vorrei chiederlo a lei, Presidente. Cioè, forse per la prima volta, al di là del giudizio che si può dare sul risultato elettorale, può piacere o non piacere, però forse per la prima volta ci troviamo per una serie di fattori di fronte a una situazione, lo ricordava anche il professor Pombeni prima, in cui non c'è solo il nemico, non c'è il giusto e il totalmente sbagliato, ma ci troviamo in una situazione di dialogo che forse può portare qualche frutto. Ecco, volevo capire se le speranze che anche Salvati aveva quando scrisse queste cose oggi possono forse finalmente inverarsi. Non la so la risposta a questa domanda, posso provare ad arrivarci, ma con questo libro davanti e con Michele davanti, partendo da lontano, io è noto che ho spesso condiviso quello che lui ha scritto, lui ha condiviso quello che ho scritto io, ci siamo più volte stupiti di una consonanza frutto di non concertazione a volte, ma di reazione intellettuale analoga davanti ai medesimi fatti. Anch'io sono sempre stato mosso da questa curiosità, capire cosa spiega il cambiamento, dove avviene. Questa è l'Europa di carta, quindi essendo di carta non si fa male, e perché non avviene dove non avviene. Che è una domanda che per chi ha un'origine di cultura marxista è un po' come la domanda del libero arbitrio per i fedeli, in effetti. E questo spiega anche l'andamento di questo libro, perché se uno legge alcuni saggi dice ma insomma sono problemi difficili per le nuove generazioni, si direbbe, da capire. Insomma, è verissimo che l'economia genera dei vincoli sulla politica, questo è ovvio, l'economia interna come l'economia internazionale. In più è noto che il passato crea la path dependence, no? Che prescinde da qualunque visione, Marx o non Marx, è proprio l'andamento delle cose economiche che crea di per sé dei vincoli sui movimenti possibili. Però c'è un inizio della curiosità della nostra generazione con la nostra cultura che è, come dire, la fiammella della libertà entrata in coscienze forgiate dal determinismo. che inizia a dire: ma insomma, non è possibile che sia tutto vincolato dall'economia, perché se così fosse, l'economia capitalista quella è, le cose andrebbero tutte nello stesso modo in paesi in condizioni se non altro similari di sviluppo. Com'è che vanno diversamente? Chi si permette di violare le leggi del determinismo economico? Ecco, un po' c'è questo tipo di problema. Appunto, la sua somiglianza con le futili discussioni sul libero arbitrio è elevatissima, se uno la prende alla lettera, questa storia qua. In realtà, a non prenderla alla lettera, appunto, la domanda apre un dibattito che è tuttora aperto, che è proprio sulle interazioni tra l'economia, le sue vicende, il modo come struttura l'assetto di una società e gli altri fattori che in questa società interagiscono con l'economia e possono cambiare in un modo o in un altro. E questo è un circuito, questo è necessariamente una interazione. Questa, la politica incide sull'economia e viceversa, insomma, scopriamo alcune banalità. In genere ciò che andiamo a cercare sono variabili che non fanno capo all'economia, ma che fanno capo a fattori sociali, politici, istituzionali. Sono questi a spiegare in realtà, quelli ai quali facciamo capo, perché ha ragione ciò. La risposta dell'economista si ferma ad un certo punto. Ruffolo, con la cattiveria che lo contraddistingue in questo libro, come sempre divertente, Il capitalismo ai secoli contati, ricorda la storiella famosa dei viaggiatori nel pallone che perdono l'orientamento e avvicinandosi a terra vedono uno e gli dicono: brav'uomo, dove siamo? Lui li guarda e dice: siete su un pallone. Era un economista. La storiella va avanti. Ha dato la risposta ovviamente giusta, che ovviamente non serve a niente, insomma. No, ecco, questa è un'autocattiveria, però è un'autocattiveria, perché come le migliori barzellette ebraiche sugli ebrei, questa la raccontano gli economisti sugli economisti, in effetti. Cioè, gli economisti sono in grado di dirti che la produttività totale è scesa, che le imprese non crescono, che la finanza pubblica sta sballando, ma perché sta accadendo? Cioè, siamo sempre tra... E questa domanda va al di là, in effetti. Io non sono se Dio vuole non sono economista. Quindi non so le risposte, neanche quelle preliminari, in effetti, questo è il mio difetto. Ma insomma, se uno va a guardare chi più si è occupato, io sono un fan di Roger Federer in tennis e di Douglas North in storia economica, no? Ciascuno ha i suoi nomi di riferimento, no? E appunto North ha sempre la domanda da cui fa partire è, insomma, c'è un secolo nel quale Spagna, Francia, Olanda e Regno Unito sono esattamente nella stessa condizione. Due secoli dopo, il Regno Unito e l'Olanda sono schizzati verso il primato nei commerci, nell'innovatività, e Spagna in particolare è andata giù, la Francia è quel caso di mezzo, in fondo, no? Che regge. Comunque la Spagna è andata giù. Allora, perché? Alla fin fine tutti, appunto, io c'avevo la filigrana di Douglas North leggendo la cavalcata rapidissima di Ruffolo, siccome devo presentarglielo il libro lunedì, l'ho letto proprio ieri mattina, e mi sono divertito come sempre quando si legge Giorgio, ma più o meno lui va a parare col suo linguaggio e va a parare esattamente nello stesso punto per spiegare perché l'impero romano andò così vicino al capitalismo ma non ci arrivò, perché neanche Bisanzio ci sia arrivata e così via, perché arrivi a questi fattori che investono insieme, perché questo è il punto, investono insieme tratti molto importanti della struttura sociale di queste società e quindi la politica. E quindi la politica. Da questo punto di vista l'obiezione che fa Carlo Donnolo in questo libro alla political economy, è chiaro, ciascuno difende la sua disciplina, questo mi pare chiaro Carlo, però finisce per, secondo me, avere un limite, perché è concentrata tutta sulle caratteristiche del ceto politico, no? La governance, e quindi è... Poi tu fai capo, bene o male, a George Stigler, public choice, i politici lavorano per sé. Tesi che dopodomani a Gaeta avrà uno sviluppo, secondo me, un po' abnorme, perché continua a non capire, l'ho detto a Tito Boeri, come possono essere veritieri quei dati dell'Istat che danno ai manager dell'impresa trattamenti pari a quelli dei travè pubblici, dei travè, non dei dirigenti pubblici che sono altri, ma non voglio entrare in quella discussione, quella la facciamo sabato. Quindi ci sono interazioni tra assetto sociale, politica e quindi economia. Perché torno alla domanda di North, nella Spagna del XVI-XVII secolo si ha il declino? Perché la Spagna non riesce a uscire dalla destinazione delle uniche risorse che ha, che sono le sue terre, che potrebbero avere una destinazione produttiva, dal uso pastorizio, da cui esce la tassa sulla lana, da cui esce il finanziamento degli eserciti spagnoli impegnati su vari fronti, e da questo circolo vizioso non riesce a uscire. Ma qui devi mettere insieme la regolazione pubblica, che crea disincentivi alla crescita, disincentivi all'innovazione, con i ceti sociali che mantengono quel tipo di regolazione e non si oppongono, cioè una aristocrazia che non viene sostituita da una borghesia commerciale produttiva, che riesce a mantenere quel tipo di assetto tenendo in piedi la pastorizia. E l'argomento giusto di Ruffolo su Roma è proprio questo, e lui lo desume da De Martino, che l'ha studiata di più, quindi è uno hearsay avvalorato da uno studioso che l'economia romana l'ha studiata. Cioè Roma riesce ad avere i mercanti, ma non riesce a farli emergere come classe dirigente, rimane nelle mani di un'aristocrazia dello status, insomma, no? E quando perde la villa non sa più quale assetto economico darsi e non riesce ad uscire dalla schiavitù e quindi dalla merce umana più che dalla merce lavoro. E la merce umana non fa nascere un'economia capitalista, in realtà, preserva un'economia puramente e semplicemente dello sfruttamento di risorse preesistenti. Quindi sono questi fattori, quindi l'emergere che stanno insieme. Ora, l'emergere, insomma, le nostre sono economie capitalistiche, il Dio non ne ha inventate altre migliori. Ha ragione chi dice che un'economia capitalista, se non riesce ad avere un ceto che è orientato all'accumulazione produttiva via innovazione, è destinata a deperire. Io in questo sono rimasto fedele a Gramsci. Occorre che ci sia una capacità di egemonia su una società da parte di qualcuno, altrimenti è un impasto. Noi dopo una fase iniziale di tentativo di egemonia della destra storica, che non a caso impressionò Gramsci e disse come vorrei che qualcuno riuscisse a riprendere quel modello, noi non siamo mai riusciti, e qui torna il punto di partenza, a costruire una nazione che integrasse le proprie componenti all'insegna di un qualcosa. Però siamo cresciuti, Giuliano, molto sotto Giolitti e sotto la prima DC. Aspetta. Quindi rimane... No, ho capito. Questo... Aspetta un momento, fammi finire. Questo io lo trovo come il dato nell'insieme più caratterizzante che si presenta con maggiore costanza e che spiega anche una classe dirigente che riesce a sintonizzarsi con le ragioni dello sviluppo, a produrre innovazioni anche regolatorie e istituzionali, a creare in sostanza un circolo virtuoso che trascina l'insieme verso equilibri più avanzati, si sarebbe detto una volta, nonostante l'equivoco della formula. Abbiamo avuto alcuni momenti nei quali questo è accaduto, e non è un caso che ci siano stati alcuni momenti. Io sono impressionato, invece quello che mi colpisce è lasciamo perdere un attimo Giolitti, che viene poi dopo, non ti voglio offendere, solo il tuo culto. Ma io sto profondamente rivalutando davanti a me stesso, con l'evoluzione che l'Italia ha avuto dal 94 in là, tutta la fase dal dopoguerra fino al 70, insomma, poi comincia la fatiscenza e la fatica di quel periodo. La sensazione che per un insieme di ragioni quella profonda divisione, che era stata proprio divisione di classe su cui il fascismo aveva costruito se stesso, costruendo un regime sul soddisfacimento simbolico delle paure della piccola borghesia. Insomma, mi permetto di essere schematico like that per definire rapidamente. E quindi con un paese fortemente fratturato, in cui non a caso quel simbolismo non riesce ad essere unificante e in quella nazione aggressiva non riesce a far riconoscere tutti. I libri di storia ci dicono che nell'immediato dopoguerra i leaders dell'epoca si trovarono davanti a un'Italia fratturata e temevano per questa Italia un destino weimariano o greco. E sotto la Costituzione della Repubblica c'era un fondamento sociale molto, molto esile. Appunto esile quanto era quello di Weimar. E così il merito storico che viene riconosciuto ai leaders politici di quegli anni è di essere riusciti progressivamente a... Cos'è stata la DC in questo contesto? La DC, grazie al fatto che doveva essere scudo anticomunista, è riuscita a tenere insieme ciò che sarebbe andato verso una destra estrema e ciò che sarebbe stato moderato. E grazie alla cultura politica di chi la dirigeva, a inventare che tutto questo andava verso sinistra. Che è stata una bella invenzione politica, questa qua. E a sinistra c'era a suo modo una consapevolezza di missione nazionale ancorata all'ancoraggio sbagliato, ancorata all'Unione Sovietica in effetti, però c'era l'idea di una missione nazionale che doveva essere in ogni caso compiuta. Questa è una stagione di eccezionale compattamento, Insomma, è una lettura che potrebbe essere ritenuta paradossale con la convenzione ad excludendum, con tutto quello che abbiamo vissuto, ma c'è un progressivo compattamento in realtà, che è in primo luogo sociale. Non a caso dopo il 94 ci si ridivide e si ricrea una frattura. E io tendo a vedere nella destra di oggi una destra che per certi versi in un mondo completamente cambiato, ma segnato anch'esso da paure, da inquietudini, da cose sconosciute davanti alle quali si tende a chiudersi in se stessa, la destra di oggi che torna a proporre simboli naturalmente diversi da quelli imperiali degli anni 30, per soddisfare o placare in qualche modo queste paure. Mi spiego perciò la vicenda della ricostruzione, la vicenda di una cassa del Mezzogiorno che nei primi anni, la vicenda della... Poi è chiaro che i fattori di fondo rimangono, perché c'è quell'esplosione dei salari? Perché c'era stata una compressione dei salari sotto una crescente produttività durante tutti gli anni 60 da portare necessariamente all'esplosione. Quei ragazzi che prendono a colpi di pietra a Torino con magliette, che non sono addestrati da nessuno, da nessuna ideologia politica, sono spinti da una situazione di sofferenza che percepiscono, perché questo è la nostra dirigenza, diciamo, imprenditoriale, che pur in quel clima tende ad una sua unilateralità. La faccio breve. Io appunto continuo a pensare che il fattore integrativo di un paese ad economia capitalistico deve essere la borghesia produttiva, è la sua responsabilità. In fondo tutti stiamo in economie capitalistiche, ma o hanno un asse portante nella borghesia produttiva o chi diavolo devono essere. O c'è questa con una sua forte capacità integrativa, oppure queste sono società destinate ad essere divise. L'Italia, per mille ragioni, ha sempre avuto una borghesia imprenditoriale debole, fin dall'inizio, fin dai tempi di Crispi, appunto, e la sua capacità di esercitare una qualche egemonia è stata sempre molto bassa. Non a caso, con difficoltà sa parlare di se stessa. Sa solo chiedere allo Stato di essere meglio di quello che è e non è in grado di esprimere se non eccezionalmente delle figure significative. Quindi nessuno ha dipinto meglio la mediocrità italiana di Riccardo Faini quando, prima di andarsene, studiò l'interazione tra sistema di istruzione e sistema imprenditoriale e descrisse questo circolo di mediocre formazione che rispondeva perfettamente ad una domanda di personale mediocremente preparato da parte dell'impresa. E io mi sono trovato a discutere con altri il tema: ma se noi forziamo con la preparazione di personale altamente qualificato, poi che lavoro possono trovare? Possono solo emigrare, perché qui non lo trovano, perché escono da quel circuito. E in qualche modo tutto si è venuto appiattendo su questo, salve punte. Questo è il problema che abbiamo davanti, in realtà, e continuiamo ad averlo davanti. Sono contento delle buone maniere che hanno improvvisamente caratterizzato la scena politica. Non so francamente quanto esse servano o bastino a a risolvere il nostro problema, che ce lo abbiamo ancora tutto davanti e in qualche modo peggiorato, perché vede, da noi non è riuscito mai a nascere proprio un uccello che vola e che riesce a superare i momenti di difficoltà, e in una situazione in cui da noi si vola bassi ci abbiamo tutte le entropie delle società già invecchiate e già organizzate, per cui abbiamo un sindacato che è proprio frutto ormai di questa entropia. Quindi non siamo mai nati e siamo già vecchi. Questo è un po' il tipo di problema che ci troviamo davanti. Quindi che Berlusconi e Veltroni si parlino mi fa molto piacere, ma appunto ancora non mi è chiaro che cosa può uscire da ciò che si dicono. Grazie. Insomma, mi pare di capire che pur con tutta la cautela del caso, perché è una partita che è appena cominciata, c'è il rischio fondato che Michele Salvati debba scrivere qualche nuova edizione di Occasioni Mancate, se appunto il bon ton non si sostanzierà, no, di elementi di integrazione e di riforma, se non ho interpretato male il suo pensiero. Però forse un elemento di speranza che poi si rintracciava anche nelle righe di Salvati resta, nel senso che questa partita è agli inizi, quindi aspettiamo e vediamo. E naturalmente se ci sono dubbi, curiosità, domande, questo è il modo di manifestarle, anche se francamente, essendo stato chiamato in ballo in tutti i modi possibili, forse Salvati ha compiuto 70 anni, ha un'età che può anche parlare, 71, ma volevo che tu facessi la precisazione, mi fa molto piacere. Questo è un po' perfido. Compiuti 70, quindi sono giovane. Dite. In realtà io credo che dovrebbero essere gli autori del libro a dire qualcosa, e l'invito, dirò qualcosa anch'io, voglio dire, eventualmente intervenire, per cui si presenta questo libro, questa è l'occasione, naturalmente. Poi non mi nascondo, io stesso, siccome il libro riguarda me, è abbastanza chiaro, ma io non voglio sopraffare questi carissimi amici che hanno voluto prendere in mano fare questa iniziativa, che mi ha imbarazzato un po', perché poche persone sono più consapevoli di me che in realtà, diciamo, un face shift, se uno pensa il testo, questa parola impegnativa, si addice a professori che hanno prodotto cose molto robuste e importanti nella loro disciplina, e io non ne ho fatte di cose del genere, sono stato molto attivo, molto appassionato, ho scritto libelli, ho scritto articoli, sono intervenuto molto spesso, alcune idee sono anche buone, credo le sostengo ancora adesso, però in realtà come contributo che rimane di una disciplina consacrata e importante. Ti sbagli. Cioè, voglio dire, io ho questa impressione, naturalmente uno vorrebbe sempre essere diverso da quello che è stato, voglio dire, ma di questo sono acutamente consapevole. Detto questo, basta con questa roba qui che non interessa a nessuno. Come continuare? Io ho un'idea su come continuare, che è anche molto semplice ed è adatta a una persona che ha esercitato funzione docente o funzione, diciamo, intellettuale per molto tempo. Il modo con cui vorrei continuare è quello di fare una buona scuola di formazione politica per il Partito Democratico, per una delle parti in causa. Potrebbe essere altri facciano scuole di formazione, altri facciano, diciamo, scuole di formazione politica per altre parti in causa, le faccio in generale, in cui in realtà coloro i quali entrano dentro, no, non si distinguono per, diciamo, fedi politiche diverse, forse quest'ultima ancora più importante, dovrebbe fare un'università, tra l'altro, una cosa di questo genere. So che la LUIS ha un progetto del genere, se non mi sbaglio, da Bocconi, non è strano che siano due università private che fanno, che vogliono, che hanno un progetto di questo genere. La cosa che desiderei fare, e spero di riuscire a fare, e di avere ancora abbastanza tempo per farla con energia, è una cosa di questo genere. No? Nella mia parte politica, alla quale sono modestamente affezionato, e alla quale credo, no? Spetterà probabilmente il compito che è stato chiamato traversata del deserto, è stato chiamato così? Voglio dire, se le cose vanno in modo ragionevolmente prevedibile, ci saranno 5 anni, ancora, da attraversare. A me piacerebbe molto che questa mia parte politica non sprecasse questi 5 anni, non sprecasse questi 5 anni come ha sprecato i 5 anni dal 2001 al 2006. Io ricordo benissimo la batosta del 2001, che è molto simile, anzi meno batostosa di quella che abbiamo ricevuto adesso, e non è stata presa nessuna lezione. Partirono i girotondi, partì Moretti con questo ceto politico, non vinceremo mai. Partì il Cofferati di allora, che non è il moderato sindaco di Bologna di adesso, ma allora sembrava la persona che avrebbe unificato l'intera sinistra estrema su un disegno egemonico importante, no? Coloro che modestamente cercavano all'interno del Parlamento, no, di alzare voci riformistiche, venivano regolarmente sbeffeggiati o comunque non erano certo, cioè partì con uno sbandamento importante verso la sinistra radicale, che è tipico, voglio dire, perché quando il Labour venne sonoramente battuto, vi ricordate, voglio dire, la prima legislatura Labour, anzi le prime due legislature, diciamo Thatcher e Thatcher Major, no, furono legislature in cui il Labour si diede dei leader di estrema sinistra e regolarmente venne ammazzato alle elezioni. Fu lentamente, con John Smith prima e poi con i successori di John Smith dopo, che cominciò a capire com'era cambiata in profondità la società inglese, britannica in generale, non solo quella inglese, e a capire come in quel tipo di società lì, quali voci di sinistra o comunque quanto della sinistra che una volta condividevamo potesse essere comunque tradotto in maniera tale da essere apprezzato o da essere votato molto semplicemente da una società profondamente cambiata. No? E allora poi ci furono le grandi vittorie di Tony Blair, no? Per 3 elezioni consecutive, per questo, probabilmente questa volta sarà una sconfitta, ma insomma, in ogni caso, 3 elezioni consecutive. No? Ma io non vorrei che passasse tanto tempo, ve lo confesso, perché da loro 4 legislature sono 16 anni, da noi 4 legislature sono 20, perché da loro dura 4 anni, da noi dura 5. Non vorrei che avvenisse. Let's settle on that. No, sto scherzando fino a un certo punto. Noi abbiamo avuto nel nostro paese una mutazione quasi antropologica che può piacerci poco, può piacerci, anzi a me piace pochissimo, francamente. Mi ci trovo male, ma è avvenuta. E abbiamo bisogno in realtà di una comprensione di quello che è avvenuto, di sapere come questo che ci piace poco possa essere raddrizzato, no? Riuscendo però a vincere le elezioni, riuscendo a trasferire, a trasformare una diversa visione del mondo, una diversa civiltà politica in messaggi votabili da questa Italia che è cambiata profondamente. Allora, a questo scopo io credo che, in realtà spero, no, che questi 5 anni vengano spesi bene. E un modo di spenderli bene può essere anche quello, o quello in cui io posso aiutare, voglio dire modestamente, come intellettuale, come persona che si è sempre occupata, è quello che mi sembra che si stia attuando adesso, della formazione di qualche seria scuola di riflessione, scuole non think tanks di corrente, non so se c'è una bella differenza, scuole, non pseudo think tanks, o think tanks veri, ma che sono organizzazioni di corrente. Un qualcosa che stia un po' al di sopra di queste correnti, che prende materiali da tutte queste correnti, no? Che non si oppone a quelle, ma semplicemente fa seria docenza. no? In cui i quadri politici, diciamo, del Partito Democratico, ma anche, sono anche di altri partiti, anche della sinistra più estrema, nessuno li respinge minimamente, ma anche se volessero venire da altre parti, dal mondo cattolico, nessuno li respingerebbe naturalmente. E questo è il compito che io mi do, assai poco, diciamo, glamorous da un punto di vista intellettuale, che ha a che fare con il modesto esercizio di un mestiere che ho fatto per 40 anni e per il quale sto per andare in pensione, dal quale quindi ho anche un compito, diciamo, dopo la pensione. Ne ho due, caro, perché becco un pezzettino di straordinariato, di fuori ruolo. Becco un pezzettino di fuori ruolo, me lo fregano. Ancora te ne danno. Eh sì, perché sono più grandino di te. Bussi l'ha tolto, e bene ha fatto. Michele, mi fai dire una cosa? Ma dalla opposizione non si può, non dico anche governare, ma fortemente influire, come è avvenuto, Giuliano prima lo ricordava, insomma, in altre fasi della storia d'Italia. Oh sì, altri lo fanno. Questo punta, altri lo faccio. Prefish sulla... Voglio dire, stiamo parlando di me. Stiamo parlando di adesso, arriverò ai grandi problemi. Ti dico qual è il compito che uno deve avere, diciamo, un'idea di che cosa fare nei prossimi più o meno 5 anni. Questa è la cosa che voglio fare. Allora, detto questo, e tolto di mezzo i salvati, vediamo un attimo, diciamo, alle cose intelligenti che sono state dette qui e che largamente condivido. Voglio dire, che voi siete qui a parlare di me, ovviamente non è un caso, sono persone a cui... sono state scelte tra quelle che parlavano bene di Gesù. Questo sicuramente, ma non solo, un'accurata selezione. Non solo questo, altri avrebbero anche, voglio dire, non è, questo non è il set anche meglio, ma sei proprio intentabile. Non è il set di tutti coloro che parlano bene di parlano bene di me, non è il set completo di questi. No. Ecco, ho detto, ci sarebbero degli altri che parlano bene di me. L'auditorium non era libero oggi, ecco. Meno spazio. Avrebbero parlato bene di me, ma avrebbero parlato bene di me in un modo che mi avrebbe o imbarazzato o che non avrei condiviso, d'accordo? E quindi ho parlato bene di me, quaderni rossi, non lo so, qualcosa di... quindi, all'epoca però, all'epoca, fa parte di queste cose. I tempi del libero arbitrio ieri, come problema. Presentavo un bel libro a Milano di Marta Boneschi, L'avventura di una città. È un libro di una giornalista intelligente, e lo consiglio, perché è la storia di questa città tra metà del Milano, no? Di quella città. Va bene, ok, dai Toscano, smettila di... No, codesta quando si usa? Interlocutore, va benissimo. Di quella città, che è la città in cui vivo e a cui sono molto affezionato, da metà del Settecento fino a Piazza Fontana, più o meno. Non è storia seria, è una giornalista intelligente ed è storia delle classi dirigenti. È una storia di una città nella quale si succedono dominazioni estere in continuazione. Parte con gli spagnoli, no? Poi arrivano gli austriaci per una prima volta, poi ritornano, diciamo, gli spagnoli, poi gli austriaci li cacciano definitivamente, poi per un brevissimo periodo Carlo Alberto e i piemontesi, siamo al 48 naturalmente, sempre come dominatore esterno, e poi dopo questo ritornano gli austriaci, e poi col 61, no, tornano i piemontesi. Guardate che sono vissuti come piemontesi da Milano per un lungo periodo, no? A questo punto Milano avrebbe tutte le caratteristiche, tra la ricchezza sociale di questa città di gran lunga la più sviluppata in Italia, come i ceti borghesi, avrebbe tutte le caratteristiche di proporsi come dirigente del nuovo Stato nazionale, e non si propone. Abituata a secoli di soggezioni, agisce per linee interne più basse, agisce con la società civile, agisce benissimo, fa delle cose straordinarie, umanitarie, le leve, sapete benissimo, voglio dire, la ricchezza, ma questo è abituato a farlo prima, abituato a sentire il ceto dirigente politico con un ceto esterno, un male necessario. A cui bisogna adattarsi e poi bisogna cavarsela. E vedete tutti i sottofugi di questa classe dirigente, fatta di slanci, pezzi di questa classe dirigente sono straordinari, ma già sotto l'aristocrazia avete degli episodi incredibili, vabbè, inutili, pensare i Veri, Beccaria, non solo questi, i Confalonieri, no, Pellico, tutti Spielberg, tutte queste cose qui, generosi, tutti quei Dandolo, tutti quelli che fanno le cinque giornate di Milano, eccetera, e avete gli incredibili conservatori, avete gli austriacanti da un lato e gli spagnolizzanti dall'altro, i vari tipi di aristocrazia prima e i vari tipi di borghesia dopo. Borghesia innovativa, intraprendente, costruttrice, è una borghesia invece speculativa, cioè Milano è la sua rendita edilizia, è il real estate, cioè le grandi fortune milanesi sono quelle, vedete presenti, voglio dire, sono speculazioni davanti alle quali impallidiscono, no? Impallidiscono non tanto, comunque allo stesso livello le grandi speculazioni dei vari Ligresti e Company e altri che non menziono, per carità, di nazione, di patria e altre cose di questo genere, no? Questi due pezzi, cioè Giuseppe Colombo che spedisce Giambattista Pirelli a un giro per vedere come si possa in realtà fare la gomma, il caucciù, eccetera, eccetera, no? Ci sono queste geniali e poi ci sono altri. Sono cose che Pierluigi sa benissimo, naturalmente. Ma Milano, nel non voler costruire una classe, nel non prendere in mano il problema di una... Sono dei... Poi uno dice, ma come Milano non costruisce classe dirigente? E allora Benito Mussolini? E allora Bettino Craxi non era classe... Sono questi milanesi arius, arius come dicono loro, sono questi milanesi di importazione, che però non trasferiscono a Roma un disegno politico milanese di costruzione di società civile, di costruzione di istituzioni, di costruzione di scuola, di costruzione di istituti. Ma Milano l'aveva. È bello leggere quel libro su Milano, perché ti rendi conto anche attraverso, no, veramente due secoli di storia, fino alla Banca dell'Agricoltura. È la prima volta che abbiamo un ceto dirigente nazionale milanese. Sì. Non so se... Posso essere irriverente? Lo sia. No, perché sennò poi... Dobbiamo esserlo. Siamo solo tra amici, quindi... È vero, irriverente verso questa classe dirigente di Milano. Irriverente verso di me. È irriverente anche verso Salvati. Cioè è vero che... non deve essere irriverente. È la prima volta che abbiamo una classe dirigente politica dove... un esponente di Milano e della Lombardia, anche più di un esponente. E cavolo. In fondo c'è quella bellissima raccolta di saggi della Fondazione Feltrinelli sulla questione settentrionale che sì. Documenta come ci sono solo stati tre tentativi di fare di Milano il volano di una nuova egemonia, poi falliti, no, negli ultimi 30 anni, Craxi, Bossi e Berlusconi. Bossi e Berlusconi sono insieme, dai. Però non le sembra curioso che invece per la prima volta vedo in fondo il presidente della RAI Petruccioli, che certamente a Milano ha passato anni di battaglie politiche importanti. Non le sembra curioso che per la prima volta un partito di nuova generazione, come il Partito Democratico, non sia in grado di esprimere a Milano un dirigente nazionale? Non ce n'è uno che io conosca. Cioè, non le sembra curioso? Ma anche a voi. Vabbè, ma insomma Milano è Milano, no? Cioè Milano è Milano, cioè, ma si parla molto di questione settentrionale. Io sono concordo con quello che avete detto prima, cioè la questione settentrionale può avere una soluzione se il nord diventa di nuovo il volano di un progetto di sviluppo nazionale, se no i problemi del nord non potranno essere. Esattamente. Però non le sembra curioso che un partito che si candida alla guida del paese, che vuole rappresentare il nuovo riformismo, a Milano non sappia esprimere un solo dirigente nazionale? Almeno io non ne conosco. Io trovo che sia una cosa curiosa. Allora le scuole per la formazione dei quadri. Io ho qualche dubbio che è un'iniziativa lodevole, ma ho qualche dubbio che possano bastare, perché poi il partito deve stare nel territorio. Guardi allo spettacolare successo della Lega. Forse la Lega non ha scuole di partito, però assolutamente no. È sul territorio, però è sul territorio, conosce certamente meglio del Partito Democratico quali sono gli umori, giusti o sbagliati che ci siano. Voglio dire, io c'è una bella espressione lombarda che dice ufele falto mestè. D'accordo? Traduci, no? Traduci. Sì, offellaio, sì, cioè sì, biscottaio, offellaio, panettiere, fai il tuo mestiere, fai quello che sai fare. Sì. Io so fare questo e faccio questo. Dopodiché, voglio dire, credo che sia un compito modesto ma utile. Posso dire ai miei di sguinzagliarsi sul territorio, voglio dire, il messaggio può essere in realtà interpretare e capire una cosa di questo genere qui. Portare vicino, diciamo, ciò che era, diciamo, gli impulsi, l'atteggiamento, la mentalità di sinistra a questa mutazione antropologica che è avvenuta non è una cosa semplice, perché se lei legge i vari giornali, non soltanto l'Unità, ma prendi il Riformista, prenda, diciamo, tutti questi, c'è, cioè, davanti alla idea di definiamo al limite alcuni problemi o programmi di, quello istituzionale ovviamente, ma se uno ci chiede di interloquire o intervenire non in modo necessariamente antitetico e negativo sulla questione dell'immigrazione, facciamolo, voglio dire, far passare una cosa del genere nel popolo della sinistra, nel suo insieme, guardi che per come è stato costruito, voglio dire, è una cosa di una estrema difficoltà. E quindi, diciamo, un problema anche di cultura politica. È un problema che esiste ed è importante. Quindi il mio piccolo mestiere di ufelè, di biscottaio, no, lo faccio volentieri perché credo sia importante. Detto questo, togliamo di mezzo il Salvatore. E siamo arrivati al problema dei ceti dirigenti, diciamo, attraverso l'esempio milanese e alla mutazione antropologica profonda, che in realtà ormai i politologi l'hanno mostrato con estrema chiarezza, era già emersa totalmente nel 94, cioè sostanzialmente Berlusconi tutte le volte che si alza dovrebbe accendere un cero ai giudici milanesi e a mani pulite, perché attraverso, diciamo, quell'assalto appoggiato dalla Lega, queste sue cose abbiamo interpretato in vario modo, no, che ha creato una rottura politica profonda all'interno del paese, attraverso la quale, un varco attraverso il quale è passato lui ed è passato Bossi. E si è espresso un pezzo della popolazione italiana a cui la grande democrazia cristiana aveva messo la mordacchia. Sia chiaro, la democrazia cristiana, uno, l'avete riconosciuto prima come grande merito civile e culturale, però non era riuscita a impedire, la democrazia cristiana, non era riuscita a impedire a questa, diciamo, questo magma, no, culturale di affermarsi e di diventare, in realtà di aspettare soltanto una scintilla per incendiarsi. E non era riuscito. Io, un grande leader politico democristiano, adesso Bisaglia, alla fine degli anni 70, guardate, siamo molto indietro, inizio anni 80, cominciano le prime lighe, comincia a sentire che in realtà la grande operazione della democrazia cristiana, dei Vanoni, no, di questi grandissimi, che era prendere i voti in questo popolo tendenzialmente di grande destra e trasferirli su un partito di centro che guardava a sinistra, capiva che l'operazione non teneva più. Bisaglia l'aveva capito all'inizio degli anni 80, ci sono un discorso profetico, no, questo ti spiega poi perché tutti quanti suoi se ne sono andati tranquillamente con la Lega o una cosa del genere, l'aveva capito, no, perfettamente. No, ha fatto questo grande, e in questo è un disegno nazionale, un grande disegno nazionale che è in questo e solo in questo, c'è, cioè, un'analogia, condivideva con il Partito Comunista. Tutte e due avevano un disegno nazionale. E non è proprio per niente un caso che per la prima volta nella storia d'Italia un partito emerge profittando di una spaccatura culturale, quella tra nord e sud, che è un tabù fondamentale, voglio dire, nella cultura risorgimentale e nella cultura italiana. Questo tabù viene rotto lo sapevano tutti che sarebbe stato facile, se uno faceva un partito contro i terroni al tempo della grande immigrazione avrebbe sbancato. Voglio dire, non è un mistero per nessuno, esattamente come se fosse un partito per la pena di morte o per cacciare gli immigrati, voglio dire, sbanca, voglio dire. Ma c'è una cultura politica profonda che emergeva dalla lotta comune contro il fascismo, che emergeva da radici profonde che stanno nella grande cultura cattolica italiana, nella cultura socialista, nella cultura comunista, che impediva di fare questa operazione. In quelle condizioni di emergenza, con Mani Pulite, la Lega, e prima di Mani Pulite, voglio dire, la Lega. No, e poi era caduto il comunismo. Certo. Non c'era più ragione di stare tutti vincolati alla democrazia. Esattamente, cristiana. Sì, e questo è il punto di fondo. Va bene, no, si sa, ovviamente, questo è il punto. Anche loro sciolti dal giuramento. Certo, anche loro. Solo di qua. No, di qua e di là, sciolti dal giuramento. E questa è la cosa che è avvenuta, e questa è la cosa che, diciamo, noi sappiamo, e non... Però... Tenete presente che dopo quella, diciamo, con questa profonda trasformazione, con l'arrivo degli Ixos, come vengono visti dai vari, come vengono visti da troppi di noi, no? Ixos veramente, voglio dire, e il problema a questo punto tutti hanno rappresentanza. Allora manca ancora nell'ambito, la sinistra milanese, lascio stare, non rispondo alla sua domanda perché potrei entrare in maniera molto dettagliata, o come la sinistra milanese è stata devastata da Mani Pulite, d'accordo? Dei quadri politici che erano alleati dei socialisti, no? E che erano persone che potevano tranquillamente parlare con Leopoldo Pirelli o con Giorgio Falck, d'accordo, da pari a pari, sono stati distrutti da una nuova generazione di giovani radicali, no, che non sapevano nulla dei problemi della città, che non potevano parlare con Tognoli, voglio dire, non avevano nessuna idea di come si fa un piano urbanistico, niente di niente, non ce l'ho con loro, bravissimi ragazzi, molti sono diventati deputati di lungo corso, poi lasciamo andare un po' come... Ragazzi e ragazze, sì, li conosciamo bene, ragazzi e ragazze, va bene? Cioè potrei parlare di questo, ma sarebbe una storia troppo locale. Il problema che voglio dire è che in realtà questa mutazione, questa trasformazione è avvenuta, si comincia a capirla e interpretarla. Io credo che il passaggio del Partito Democratico di Veltroni sia un inizio, ma un inizio ancora non basato su una comprensione profonda di quel che è avvenuto. Lo stesso Lebo ci ha messo 4 legislature per capire cos'era avvenuto con la Thatcher. Io mi auguro che capiamo un po' prima, mi auguro che anche la mia piccola scuoletta costituisca un piccolo acceleratore di questa cosa qui. Non mi ritorno alla scuoletta, continuerò a ragionare su una cosa di questo genere, ma è questo che dobbiamo capire. Se possiamo fare una cosa che ancora possa, che possa vincere e ancora fregiarsi gloriosamente del nome di sinistra, cioè sostanzialmente avere in sé quei valori di eguaglianza, di solidarietà, di rispetto, di civiltà, no? Che avevano in passato le sinistre, diciamo, democristiane, come le sinistre comuniste, che erano sinistre. È possibile un'operazione di questo genere? Io penso di sì, ma entriamo nel discorso destra e sinistra. Per il resto, lasciatemi dire, tutto il mio lavoro di natura un po' più è cominciato su problemi molto più concreti, cioè spiegare l'inflazione italiana, lo dicevo qui Baciocca, voglio dire, e far capire attraverso un modellino molto semplice che era da dove nasce la domanda di inflazione d'Italia diversa da quella di altri paesi e da dove nasce un'offerta di inflazione, ove intendo offerta di inflazione, intendo dire la moneta che consente all'inflazione di alimentarsi. E qui la frase che altrimenti sarebbe stato un atto sedizioso, lo dice così Carli, sedizioso. Sì, e fu no, o forse lo disse per in ogni caso, la cosa così, no? Sarebbe stato un atto di questo genere qui. Venne, no? Quindi l'offerta di inflazione era per controllare quel tipo di inflazione lì, di spinta lì, di domanda di inflazione così brutale che nasceva da una precedente repressione, che nasceva tutte cose, sono state analizzate anche abbastanza dettagliatamente da persone competenti. No, questo tipo di analisi fa vedere come l'inflazione italiana è diversa, sia per l'aspetto di spinta, sia per l'aspetto concessorio della moneta necessaria per poterla alimentare. Voglio dire, queste sono cose, nasce da lì. Naturalmente poi cominciano con il perché che si va per cui si va sempre a ritroso. Ma perché è così? Capite? È una, come si dice, se si fa perché, perché del perché, e questo è la... ho capito, ma si va indietro e non si finisce mai. Quindi il modello intanto è efficace in quanto a un certo punto finisce, no? Cioè chiude e considera in precedenza un insieme di altre caratteristiche, le prende come dei dati che lo spiego ulteriormente, no? Altrimenti ci sarebbe questo regresso ad infinito. Il regresso ad infinito non è utile. E allora ho cominciato a lavori un pochettino più ampi, e nei lavori un po' più ampi che ho fatto, di cui forse quello più di cui ho cercato di capire di più, nascono sempre da un confronto, nascono sempre perché io adoro i confronti, i pair comparisons, che sono molto istruttivi. Naturalmente se non pensa che siano, se uno non si mette alla boria scientifica, non pensa di fare, diciamo, e non pensa che invece i confronti fatti statisticamente su un dataset di 128 paesi, come fa Tabellino, fanno Alesina, no, per spiegare come mai la banca centrale si accompagna o a maggiore inflazione o minore inflazione. Queste robe qui, io a queste robe qui ci credo esattamente come ci crede Pierluigi Ciocca. Mettiamola così. Quindi vieni a Gaeta. No, non posso venire a Gaeta. No, c'è questo mondo qui, c'è questo mondo qui, lo so, voglio dire, lo Tito Boeri. Lo sai come hanno valutato la, la Fondazione Rodolfo De Benedetti? La disponibilità a curare il bene comune dei parlamentari dal rate of attendance alle... Lo so benissimo come fanno. Come ci parlo con questi? Che ti credi? Dite di trovare degli indicatori un po' più sofisticati, digli così, va. No, perché hanno bisogno di indicatori, altrimenti non possono fare una regressione, ha capito? Va benissimo, non ci crediamo, però detto questo, voglio dire, lo sappiamo, una cosa di questo. Sono andato un po' indietro e il passo indietro in realtà, con tutto il grandissimo, il passo indietro è molto semplice, il passo indietro è, purtroppo è tutta la storia d'Italia. No, ho capito, c'è un pezzettino però che lascio indietro e praticamente mi affido semplicemente a una, diciamo, ad altri maggiori di me, eccetera. Ed è stato, diciamo, il modo con cui, anche leggendo questo libro di Milano, la cosa mi ha convinto moltissimo, con cui si è formato, diciamo, questa classe dirigente liberale striminzita e piccola che grazie al suffragio universale riuscì a comandare. Una classe dirigente che aveva tutte le caratteristiche, il cui disegno era quello di una, ovviamente di un'economia di mercato, ma di un'economia aperta, di una civiltà capitalistica di gran lunga superiore a quella che noi mai riuscimmo a sperimentare. Striminzita. Le grosse forze, i rossi e i neri, erano fuori. Pace per i rossi, ma per i neri l'influenza determinante e devastante del non expedit, cioè sostanzialmente di non integrare. Perché vedete, un paese è fatto dalla sua classe dirigente, voglio dire, le idee gramsciane di tipo rivoluzionario, che appunto della non integrazione dei contadini, eccetera, eccetera, queste sono sciocchezze. Il disastro per l'Italia è di non avere aggiunto alla borghesia liberale piemontese o toscana la grande borghesia cattolica bresciana e milanese, voglio dire, perché non averle messe insieme, perché se avessero messo insieme queste due grandi forze non avremmo neanche avuto il fascismo, guardate. Come dimostrano i dati elettorali, non è civilizzata la più grande finzione. Non è civilizzata la più grande finzione. Ho capito, ma venne troppo, ritardò moltissimo. Lo ritardò, non erano integrati come classe dirigente che voleva le stesse cose. Dai, voglio vedere nel Partito Popolare, voglio dire. Comunque, su queste cose qui, voglio dire. Paolo, guarda, ne discuteremo. Ne discuteremo perché è importante una cosa di questo genere qua. È un mito? Va bene. Io non credo che sia un mito, voglio dire. Certo che votavano, no? Certo che votavano, voglio dire. Insomma, aveva queste grandi spaccature, voglio dire, cattolici, liberali, nord e sud, no? Destra, agrario, fondiario, iperconservatrice e una sinistra estremistica. No, d'accordo, queste sono le tre grandi spaccature di questo paese e da cui non si risollevò anche nel dopoguerra, nonostante la grandissima, diciamo, il grandissimo ruolo che svolse la Democrazia Cristiana fu la grande forza politica che fece rimanere il nostro paese nell'ambito quantomeno formale della democrazia, perché vincendo regolarmente le elezioni e senza trucchi, perché se ci fu trucco questo fu probabilmente la posizione della Repubblica, ma non so neanche se ci fu, ed è irrilevante, vincendo regolarmente le elezioni impedì un destino di tipo greco o altre cose di questo genere, naturalmente, no? Convenzio ad escludendum, sarà una convenzio ad escludendum, però per Dio, democristiani e più tardi aiutati dai socialisti vincevano le elezioni, quindi forza democratica. al suo interno, naturalmente essendo questo grandissimo coacervo, all'interno nutrì due parti. Una parte metteva la mordacchia a questi pessimi impulsi, no, che vengono da lontano. E a questo, da un lato fu il suo, mise questa mordacchia. Dall'altro lato, nei suoi ceti dirigenti e per una piccola parte del suo popolo, sviluppò una cultura riformistica autonoma. E costruì classe dirigente. E costruì grandissima. Di gestione, poi certo, distrutti, certo, esattamente. E costruì classe dirigente. Benissimo, fece questa straordinaria operazione. Questa operazione ebbe, diciamo, si incontrò, diciamo, con forze spontanee e funzionò bene. Fino a quel momento, secondo me, di snodo, no? Veramente l'occasione mancata, che fu il centro-sinistra. Lo dico, no, con la consapevolezza adesso, che quando ero giovane, io e quella signora col vestito verde che sta lì, voglio dire, e anche quello là con la barba, voglio dire, tutti noi, no, tutti noi, quaderni rossi, quaderni piacentini, eccetera, fummo un piccolo ostacolo, non fumo noi il vero ostacolo, via via, come direbbe i piemontesi, no? Un piccolo ostacolo, comunque di gente che non ha capito un tubo. Allora, qual è il problema in realtà nel gestire uno Stato maledettamente complesso e ricco di pulsioni che lo fanno, potevano farlo schiattare, cioè, non capivamo nulla di una cosa di questo genere, ma appunto non capivano il sindacato, non capivano nulla, perché quella cosa che tu hai detto, no, del Partito Comunista, poi c'era questo piccolo, c'era questa cosa qui, sì, avevano questa idea del diciamo, un disegno nazionale che si incontrò con la Democrazia Cristiana, è vero, e poi avevano questo piccolo, come direbbe a Modena, difettino, di stare legati a un... altro che piccolo difettino. Questa roba qui è una roba che impediva assolutamente qualsiasi evoluzione. Craxi questa roba lo capì, voglio dire, cercò di romperlo con la sua irruenza, non ci riuscì, eccetera. Ma questa è un po' quella cosa. E se uno va a leggere la storia del dopoguerra, del secondo dopoguerra, in controluce con la storia spagnola, beh, gli insegnamenti che ne trae, guarda, sono straordinari. Ma semplicemente, no, suggerimenti, perché da loro andò? Andò bene e da noi no, ma... insomma, come vedete è un modo di leggere la storia, voglio dire, pro domo sua, e voglio dire con un disegno di civiltà capitalistica in mente, civiltà di mercato in mente, e come riuscire a diffondere, diciamo, nei diversi partiti, no, sostanzialmente diverse versioni, una versione anche liberale, no, più aspra e più competitiva di quanto la sinistra sia mai disposta ad ammettere, mi va benissimo, purché sia di buon livello, eccetera, no? Allora, i compiti sono grandi. Io ho l'impressione però che adesso, avvenuta questa mutazione antropologica, no, nella sinistra questa roba si sia capito, e nella destra si sia capito che tutto considerato un po' più di civiltà, e un po' meno, io spero, perché capisci, voglio dire, non dobbiamo capire soltanto noi della sinistra della mutazione antropologica avvenuta, quelli della destra devono capire profondamente che in parte gli anima spirits delle persone che loro accarezzano, a cui fanno il filo, sono un qualcosa di estremamente pericoloso, grezzo e volgare, quindi ben vengono i rabbuffi dall'Europa su queste cose. No, spero che, voglio dire, noi teniamo abbastanza duro, noi intesi in questo momento come sinistra, in genere preferisco noi come italiani, no? Ma in questo punto parlo, diciamo, a partire da sinistra, teniamo abbastanza duro da educare Grecia capta ferum victorem cepit, è una cosa che non si dovrebbe dire, ma finisco qua.